Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, mi scusi, ma non bastava mettere nel sedile di ogni scranno un sensore come quello presente in ormai tutti i modelli di automobile? Bastava un decimo della spesa, probabilmente anche meno. Non si rilevavano le impronte e bastava imporre due condizioni al microcircuito elettronico. Primo, il peso presente deve essere maggiore di 35 kg, così che non sia sufficiente per il vicino appoggiarsi con le mani. Secondo, per abilitare al voto è necessario essere seduti da almeno 10 secondi, in modo da non permettere di sedersi in più sedili per votare. Al solito la politica in Italia non facilita le cose, le complica. Ho vinto qualcosa per l'idea dell'anno? Distinti saluti, Sergio. Trovo giusto che chi non si presenta alla Camera non abbia diritto di voto. Se per impedire che qualche furbo voti per chi non è presente c'è bisogno di un lettore di impronte digitali, ben venga. Anzi, a fine anno divulgherei le presenze e le assenze dei nostri politici, così scopriamo se si meritano il lauto stipendio che mensilmente gli versiamo o se dobbiamo assumere un brunetta che licenzi chi tra questi risulti assenteista. O forse è proprio questo che teme la nostra cara classe dirigente. Cordialmente, Erika. Caro direttore, ho sentito diversi politici lamentarsi del fatto che prendere le impronte digitali per garantire la correttezza del voto alla Camera sia un modo di criminalizzare i politici, quasi che le impronte digitali siano una cosa solo da delinquenti. Io, per accedere al mio terminale Bloomberg, devo usare le mie impronte digitali. Questo si fa per la sicurezza e non perché io sia un delinquente. È un'offesa sentire che per i politici le impronte digitali siano solo una cosa da delinquenti. Ed è mortificante che i nostri parlamentari siano così vecchi di mente e di concezione e che soprattutto facciano ancora le bambinate che si facevano a scuola. Luca. Gentile direttore, sono una piccola imprenditrice nel settore delle pulizie. Ho 29 anni. La mia mattinata lavorativa inizia alle 5 del mattino e finisce alle 16:17, con un paio d'ore di pausa per il pranzo. E le tasse me le pago fino all'ultimo centesimo. In passato ho gestito un bar con mio fratello per 6 anni. Per pagare i debiti lavoravo anche nel fine settimana in un pub. Non considero il lavoro tutta la mia vita, ma se lo dovessi perdere, mi sentirei semplicemente inutile per la società, un peso per lo Stato. Ora, nella zanzara di qualche giorno fa ho sentito argomentare a favore dell'utilizzo di parte delle mie tasse a finanziamento di quelle persone, ingegneri, filosofi, operai, segretari, eccetera, che perdono il lavoro e che non sono disposte ad accettarne altri che non corrispondano alle loro aspirazioni. Spero sia stata una battuta, perché lo troverei molto offensivo. Cosa c'è di male se un ingegnere, in attesa di trovare un posto degno della sua preparazione, invece di vivere a spese dello Stato, si rimbocca le maniche e viene a lavorare per me? Perde le sue competenze per caso? L'obbligo a lavorare da me vita natural durante? Sarebbe un danno se contribuisse anche lui alla ripresa del paese con un lavoro onesto? È inutile che si facciano premesse del tipo «tutti i lavori hanno una dignità», quando poi si considera normale che un laureato non si sporchi le mani con certi lavori. Io sono orgogliosa del mio lavoro, perché è onesto, mi permette di vivere e do lavoro ad altre persone, tutte in regola con i contributi pagati, e quando incontro persone che a causa del mio lavoro neanche mi salutano perché si considerano superiori, tra me e me mi faccio una risata. Una persona ha pienamente diritto di ricercare il lavoro che corrisponda alle proprie aspirazioni a costo di rimanere disoccupato anni, ma non con i soldi delle mie tasse, non sulle spalle dello Stato. Vorrei altresì far notare che la laurea, al giorno d'oggi, è il fine e non più il mezzo, altrimenti non si capirebbero tutte quelle persone che prendono lauree incompatibili con il mercato e poi si lamentano di rimanere escluse dal mondo del lavoro. Ribadisco, se uno vuole laurearsi in teologia, è libero di farlo, magari non in 10 anni, ma è un altro discorso. Basta che poi non pretenda un posto da teologo e nell'attesa viva a spese della comunità, perché io lo chiamo egoismo e irresponsabilità. Io lo dico perché ho non poche difficoltà a trovare personale. La maggior parte degli italiani preferisce un posto da centralinista precario sottopagato in un call center che un lavoro come il mio a tempo indeterminato. Non che ci sia qualcosa di male. Basta che non si lamentino o chiedano l'intervento dello Stato. Preciso che non intendo generalizzare, ma parlo per esperienza personale. La maggior parte dei miei dipendenti sono stranieri. Un'italiana non vuole superare tot ore perché altrimenti perderebbe i contributi. Tante ci hanno chiesto di lavorare in nero per le stesse ragioni ed abbiamo rifiutato, perché oltre a essere rischioso, a noi non conviene. Altre ci fanno una testa così che sono disperatamente in cerca di lavoro e appena vengono a sapere in cosa consiste, spariscono. E mi fermo qui per carità di patria. Per concludere, giusto sostenere chi perde il lavoro, a patto che accetti qualunque altra alternativa, anche usare la ramazza. Grazie dell'attenzione, Sara. Caro direttore, il trasferimento di molte attività nei paesi emergenti può salvare forse l'esistenza delle aziende che effettuano la delocalizzazione, ma non del personale che questa delocalizzazione subisce. Alcune cure sono peggio della malattia. Se il fenomeno è destinato ad estendersi a tutte le nostre aziende e al relativo indotto, come ci si può illudere che uno Stato indebitato, poco efficiente e spesso anche incapace possa avere risorse per assumere tutti? Il colossale debito dello Stato fino ad oggi è stato coperto dalle banche e quindi se le banche in crisi per altre ragioni volessero riprendersi i soldi prestati allo Stato, sarebbe il fallimento dello Stato. Come si può pensare che uno Stato già pieno di debiti possa farsi carico anche di occupare milioni di lavoratori fuoriusciti dalle aziende private fuggite all'estero? Con quali soldi lo Stato potrebbe mai comprare la banca che fino ad oggi gli ha prestato i soldi? Il problema dei debiti possiamo risolverlo facendo altri debiti come chiedono gli statalisti? Grazie, Marcella. Gentile direttore, sono un 37enne dipendente di una grande azienda multinazionale, che si ritiene molto fortunato di non essere ancora stato gentilmente invitato a presentare le proprie dimissioni in cambio di un compenso che, se rifiutato, si trasforma nel giro di poche ore in trasferimento di sede, magari in uno stato dell'Est Europa. Premesso ciò, vorrei esprimere la mia visione sull'attuale situazione economica. Nell'azienda per cui lavoro ci sono persone, i cosiddetti top manager, che guadagnano cifre assurde. Parliamo di decine di milioni di dollari l'anno. Anno dopo anno, alle riunioni di inizio anno fiscale, ci bombardano di concetti che parlano di sfida, crescita, eccellenza. Il tutto si traduce ogni volta in una ulteriore pressione sul nostro lavoro. Produrre di più, in meno tempo, perché dobbiamo assolutamente fare il budget e quindi aumentare i margini. Purtroppo il mio stipendio, come quello di svariate migliaia di miei colleghi, è rimasto lo stesso negli ultimi 4 o 5 anni. Mentre i compensi dei suddetti top manager si sono più che raddoppiati. In azienda siamo 70.000 addetti. Di questi, un centinaio guadagnano ognuno, in media, quanto guadagnano 700 dipendenti. A questo punto il conto è molto semplice. Dimezzando lo stipendio a 100 persone, lo si potrebbe aumentare fino al 50% a tutti i restanti dipendenti, rendendo la vita di queste persone meno difficile. Con questo voglio dire che una realtà del genere rappresenta perfettamente il modello economico mondiale. Dato che siamo un sistema che si basa sul consumo, se meno dell'1% della collettività ha grandi risorse, per quanto questo gruppo possa consumare non basterà mai per tenere in equilibrio il sistema produttivo. La sola via di uscita è dare la possibilità alla maggioranza degli individui di aumentare i consumi, altrimenti il sistema si blocca. Lo si chiami socialismo, lo si chiami come si vuole. Io credo che sia semplicemente un ragionamento logico che purtroppo l'elite di questo mondo non vuole accettare. Quando si arriverà a comprendere che si può vivere egregiamente con cifre molto più basse di quelle che queste persone guadagnano, saremo fuori da questa crisi. Il modello economico attuale si è dimostrato fallace. Possiamo evitare il peggio se accettiamo un cambio del modello economico. Cordiali saluti, Giuseppe. Secondo la mitologia greca, Atlante era stato destinato a sorreggere la volta celeste. Secondo l'ideologia dei miti di oggi, ad Obama è stato forse affidato il compito di sorreggere il mondo e deciderne le sorti? Ma no. Ad Obama facciamo i più accurati auguri, perché dal suo potente scranno possa governare con saggezza ed intelligenza, possa fare scelte di concretezza lungimirante, possa dimostrare sul campo di battaglia almeno una piccola parte delle vittorie che in troppi gli attribuiscono già a priori. È giusto e doveroso che tifiamo per lui e per tutti i governanti affinché facciano il possibile per questa umanità che si è forse accorta che il denaro non si moltiplica miracolosamente. Tutti sappiamo oramai che ogni centesimo che va in tasca a Tizio debba necessariamente uscire dalla tasca di Caio o di Sempronio. Chi si è illuso, dai grandi finanzieri al piccolo risparmiatore, di fare i soldi senza sudarli, ha pensato o pensa forse che il mondo sia pieno di lotterie a premi? Ovvio che la risposta sia no, ma troppi l'hanno creduto e lo crederanno ancora. A mio avviso, il vero investimento lo deve fare ognuno di noi dando tempra onesta alla personalità, muscoli solidi alla schiena e stimoli generosi al cervello e alle braccia. Quando le vecchie corriere di 50 anni fa affrontavano le salite più dure o scivolose lungo le stradine delle nostre valli, noi passeggeri, salvo i vecchi e i malati, scendevamo senza brontolii e spingevamo solidali quei ferri vecchi con i cilindri usurati. Perché non trasferire tale similitudine nel nostro vivere? Non è un'utopia, ma una necessità di carattere civile, sociale, economico e morale. Forse così supereremo la china. La corriera del mondo non fonderà i motori e i vari governanti saranno sì incoraggiati nel reggere il volante, ma anche consapevoli che nessuno di loro è un deus ex machina, nemmeno Obama. Cordialmente, Aurelia. Gentile direttore, il tema della sovrappopolazione è da sempre un tema tabù. Ideologie politiche e religiose impediscono che si sviluppi un dibattito pubblico sul tema della popolazione su basi puramente scientifiche. Abbastanza spesso si parla di esaurimento delle risorse, ancor più spesso dell'inquinamento, dei suoi effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi terrestri e in primis sul clima. Ma è quasi sempre assente, con qualche meritevole eccezione come quella del professor Sartori, la denuncia pubblica del nesso fra le varie crisi che si stanno manifestando in questi decenni. Quella ecologica, quella energetica, quella economica e l'esplosione demografica degli ultimi due secoli. Nel campo delle soluzioni a queste crisi, poi, si propongono ambiziosi progetti fondati su complessi accordi internazionali di dubbia praticabilità, come il protocollo di Kyoto per il clima, una nuova Bretton Woods per la finanza, eccetera. Oppure sull'uso di sofisticate tecnologie, la cui praticabilità è spesso sopravvalutata. Ma si rinuncia in partenza all'uso della più semplice delle tecnologie disponibili, quella dei metodi anticoncezionali che, affiancata da serie politiche di educazione alla salute sessuale e riproduttiva e di empowerment delle donne, potrebbe ridurre la pressione antropica su questo pianeta in modo incruento e conveniente per tutti. Luca. Caro Luca, il tema della popolazione non è per nulla un tabù, ma anche se non mancano tra gli esperti, come è giusto, visioni diverse e analisi differenziate, su di un elemento vi è una sostanziale unità di vedute. Non è corretto parlare in generale di sovrappopolazione del mondo. Ci sono paesi dove, per esempio l'Italia, già ora la popolazione cresce pochissimo e solo per effetto dell'immigrazione. Ci sono altre aree dove, anche grazie allo sviluppo economico, si stanno progressivamente riducendo i tassi di natalità. Ci sono infine paesi dove la natalità è ancora molto alta e dove la povertà e la fame sono ancora diffusi. Se queste sono le premesse, ci sarebbe bisogno di politiche esattamente opposte: di aiuto alla natalità nei paesi occidentali, di educazione familiare e di responsabile limitazione delle nascite nei paesi più poveri. Se teniamo conto di queste distinzioni, allora ha senso parlare anche di ideologie politiche e religiose. Ma rivolgendosi non tanto alla Chiesa Cattolica, molto presente soprattutto nei paesi a bassa natalità, ma all'Islam e alle religioni tribali, che dettano legge nei paesi come il Niger, il Mali e l'Uganda, che guidano la classifica dei paesi a più alta natalità. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.